Incontri di Gianfranco Fabi. It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Buongiorno, buona domenica, buon pomeriggio e anche buon Ferragosto per domani a quanti ci ascoltano con questo brano, con questo Alleluia. Iniziamo l'incontro di oggi con Don Paolo Padrini. Buongiorno Don Paolo. Buongiorno, buongiorno, grazie. Perché, perché questo Alleluia? Ma è una canzone particolare, poi per chi conosce l'inglese il testo non è che sia un testo proprio religioso, no? Però ha un... a me piacciono le cose evocative, non troppo schiette. C'è qualcosa di religioso in quel testo, c'è questa parola che richiama ovviamente la fede, però non lo è troppo, per cui lascia un po' così vagare la mente e farsi anche la propria idea di così prendere un po' di spiritualità che penso che ce ne abbiamo tutti bisogno. Don Paolo Padrini è parroco di Stazzano d'Alessandria, ma ci sta poco in parrocchia, mi sa. Cerco di starci il più possibile, ecco. No, perché... dico sempre che io sono contentissimo che la prima cosa che faccio, e quella più importante, è essere parroco, perché stare in mezzo ai miei ragazzi, alla gente, andare a trovare i miei anziani è la cosa più bella che si possa fare. E poi faccio tante altre cose belle che mi portano un po' fuori, però fondamentalmente lo zoccolo duro è quello lì. La sua grande passione è quella dell'informatica, della comunicazione, del trasmettere la fede attraverso tutti gli strumenti della tecnologia e quindi dell'uomo che la tecnologia ci offre. Ma io andrei un po' all'inizio, perché è iniziato studiando l'organo. Sì, è laureato in... sono diplomato in organo e composizione... al Conservatorio di Alessandria, una passione che ho coltivato fin da piccolo e che ho portato avanti con un po' di fatica, perché insieme prima agli studi tecnici che ho fatto prima di entrare in seminario, poi insieme agli studi del seminario, è stata difficile, però alla fine sono riuscito a chiudere il ciclo degli studi musicali. E non c'è incompatibilità tra uno strumento come l'organo, che richiama appunto cose classiche, cose forse anche un po' artigianali, un po' una costruzione anche nella stessa realtà dello strumento molto, molto umana, e la tecnologia, questi... No, anzi, io ci vedo delle analogie. L'organo lo definiscono lo strumento, l'orchestra, no, degli strumenti portatili. È uno strumento sinfonico, proprio si definisce così. E beh, la comunicazione, se c'è qualcosa di sinfonico, è proprio quella, quindi questa analogia ce la vedo. Quindi anche attraverso un computer, attraverso gli strumenti del comunicare attuale, si può realizzare qualcosa di molto armonico. Sì, io ne sono profondamente convinto, nonostante che sembri tutto confuso, troppe cose, però io credo che un'armonia la si possa trovare, qualche elemento di armonia. E anche lei ha fatto una tesi di laurea che si intitolava... Chat line, luogo e tempo della comunicazione dell'incontro. Io sorrido sempre perché è una tesi un po' strana per essere stata presentata all'Università del Papa, che è la Pontificia Università Lateranense, no? L'hanno pubblicata poi anche subito. Non nascondo che c'era anche qualche trascrizione di chat con qualche piccola parolaccia che usciva qui e là, perché ho trascritto in analisi quello che c'era, è forse l'unica tesi che è uscita con qualche parolaccia, ecco. Però è la realtà, insomma, in fondo è così, la realtà è siamo questa. Partiti da quello E quindi questa passione per la comunicazione è nata già negli anni di università, già... Sì, l'ho sempre maturata. Io sono sempre stato appassionato di tecnologia da ragazzino proprio, e non mi posso considerare un nativo digitale perché sono già un po' fuori, diciamo, non sono proprio nato con... Però la passione l'ho maturata subito dall'inizio, e poi ho avuto la fortuna di aver avuto delle persone vicine che mi hanno hanno valorizzato questo elemento e mi hanno subito messo a fare concretamente cose che erano attinenti al mondo della comunicazione. E quindi nel mondo attuale predicare il Vangelo vuol dire anche usare questi strumenti per mettere la lanterna ben visibile, come dice lo stesso Vangelo. Renderla visibile vuol dire usare questi strumenti. Certo, la lanterna e oso dire il mantello di Gesù. No? Riprendendo un'immagine anche utilizzata al Cardinal Martini, no? Questo mantello che gira e che uno ha la possibilità di toccarlo anche senza capire da dove arriva sta forza, dove arriva. Questo è un bel mantello che gira, perché internet pensiamo cosa copra. Certo. E quindi una realtà che può aiutare, ma senza far perdere un po' quella tradizionale formula di comunicazione. Andate ad annunciare il Vangelo, e sembra un annuncio fatto così di persona. Sì, io credo che possa aiutare per due motivi. Primo, perché rappresenta molto bene, esprime molto bene quello che è uno dei verbi fondamentali, che è l'andare, no? Gesù, quando dice state fermi e annunciate, dice andate e annunciate, no? Quindi l'andare, internet proprio esprime l'andare dei bit, l'andare della comunicazione, della parola che si rimbalza da un sito all'altro. E poi c'è la dimensione dell'incontro, perché su internet si incontrano comunque, volenti o nolenti, uno può dire c'ho il computer davanti, c'ho lo schermo, però qualcosa di incontro c'è. E io dico sempre, e lo sottolineo perché ci credo fermamente, se uno ha un po' di fiducia nello Spirito Santo e crede che Dio possa incontrare oggi l'uomo, non può postulare, pensare così per principio, per partito preso, che su internet, solo perché c'è uno schermo davanti, dietro non ci sia nessuno. Ecco, io penso che dietro ci sia sempre qualcuno, bisognerà capire in modo un po' intelligente come riuscire a comunicare, no? Certo, perché lo schermo può essere anche un alibi per A volte può anche essere, in certi casi diventa anche terapeutico, no? Perché uno certe cose non le dice di persona, però le riesce a far trasparire. È un po' il velo, no? Che svela e vela, non fa vedere, ma un po' fa vedere. E lì basta essere, secondo me, capaci di capire sto velo come è fatto e riuscire a utilizzarlo bene, perché il velo può diventare un lenzuolo che mi soffoca, oppure può diventare uno spazio. Ecco, quali sono state le iniziative che lei ha messo in piedi proprio usando i sistemi di comunicazione? Diciamo, a parte le cose, le piccole cose con le quali ho iniziato, io ho avuto un po' così questa pazzia a un certo punto, attraverso un telefono di cui non si può fare nome e cognomi, che mi sono trovato in mano, mi è subito venuta in mente questa idea di portarci sopra il breviario e la preghiera della Chiesa. E questa cosa, che l'ho fatto per me, dopo in 3 giorni è diventato un fenomeno mondiale. E questa cosa è stata ai breviari, questa applicazione è diventata un po', posso dire, cioè un ebook in pratica. Sì, proprio più che un ebook, è proprio il concetto del dire: premo un tasto e accendo il telefono e oggi mi trovo sul telefono le mie preghiere che mi servono. La preghiera on demand che arriva da me, no? E questa cosa ha avuto molto successo ed è stata la prima grande iniziativa che ho fatto. Da lì poi ho avuto l'onore, mi sento molto onorato, di essere stato contattato dal Vaticano, dal Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, col quale abbiamo elaborato il progetto Pop to You, che praticamente, per semplificare così, ha un po' sdoganato nel mondo del Vaticano. Ecco, Pop sta per Papa, non sta per Pop. No, Pope, Pope to You, ecco, il Papa verso te, per te. È un portale per i giovani che ha sdoganato un po' il Facebook nell'ambito della Chiesa, e poi altri progetti sempre in linea con questo, per la beatificazione appena passata di Giovanni Paolo II. Abbiamo avuto questa idea di queste sentinelle digitali, cioè di ragazzi che su Facebook e sui social network portassero la parola del Papa e i suoi ricordi che ha lasciato e ha seminato per tutti gli anni del pontificato. E poi ultimamente adesso un grosso progetto legato al mondo della perché no, perché non è un mondo sporco, dell'economia è legato legato alla Chiesa e con tutto quello che può essere di positivo in questo incontro. Devo difendere per contratto il mondo dell'economia. No, ma è giusto difenderlo anche perché comunque ci viviamo e... E poi soprattutto se l'economia può essere al servizio dell'uomo. Ecco, infatti l'idea era proprio nata da quello, da poter capire come poteva esserlo. E abbiamo avuto questa idea, che poi insomma... Ancora con questo alleluia riprendiamo il nostro incontro con Don Paolo Padrini, parroco di Stezzano, nei pressi di Alessandria, ma grande interprete della realtà di internet e della testimonianza evangelica via internet. Parlavamo delle iniziative realizzate da Don Paolo Padrini, tra cui la collaborazione con lo stesso Pontificio Istituto di Comunicazioni Sociali per la realizzazione di un portale Pope to You, il Papa per voi. Ecco, e gli chiedevo proprio alla fine del nostro della prima parte di questo programma come non rischiare di mischiare il sacro col profano, mettendo appunto la parola del Papa, la parola del Vangelo, strumenti in fondo profani, come molto spesso sono quelli di internet, Facebook e dintorni. Ma io penso che sia un po' un falso problema, no? O meglio, è un problema che nasce se abbiamo l'idea che uno strumento sia una cosa che serva per fare delle cose. Allora, certo che se io ho una cosa che è eterea, asettica, no? Come potrebbe essere la parola considerata tale, la parola del Papa sulle nuvole, ecco, mi perdoneranno i miei superiori, ma io parlo molto semplicemente di queste cose perché sono cose poi che bisogna esprimere bene, e invece lo strumento come qualcosa dentro la quale io metto come se fosse un contenitore, allora le cose non funzionano chiaramente, no? Perché nessuno strumento può essere così perfetto da poter contenere una parola così importante, no? Invece il discorso è molto più impastato, perché lo strumento diventa il luogo nel quale ti incontri, e allora se è un luogo vale la pena di essere abitato. E immagino, io non sono il Papa, ma immagino che il Papa abbia piacere se quello che lui dice, che poi non è parola sua, ma è la parola veicolata nell'oggi del Vangelo per la gente e per i cattolici, penso che abbia piacere se queste parole girino, no? E noi abbiamo fatto girare non solo le parole, ma delle immagini, ad esempio. Attraverso Pop to You noi abbiamo veicolato su Facebook delle cartoline, sfruttando uno strumento, Facebook, le cartoline, che su Facebook vanno molto, no? Le immagini che ci si scambia come regalo, i gift, mi ha detto, ma perché non diamo in mano alle persone che ci credono delle cartoline belle del Papa, un Papa che perché è così, che sorride, che è umano, che ti dice una parola di consolazione, che ti fa un sorriso. E beh, questo è penso che sia una grande comunicazione, no? Sì, sì, usare lo strumento proprio come strumento, e poi dopo quello che viene messo è responsabilità di ciascuno ed è un'opportunità che viene colta. Qual è stata la soddisfazione più forte che ha avuto delle iniziative che ha realizzato in questi ultimi anni? Ma la soddisfazione è stata quella di vedere, intanto vabbè, grande interesse per queste cose e di vederle crescere bene. Io sono contento perché sono un po' di anni che il Papa, ad esempio, nei suoi messaggi annuali per la giornata delle comunicazioni sociali tiene l'attenzione sui social network, su internet, ed è giusto che sia così, credo, ed è questa è una grande soddisfazione, perché in parte sono anche contento di aver aiutato anche questa cosa, no? Nella fase iniziale, e di poterla aiutare adesso finché il Signore me lo permetterà. Questa è una grande soddisfazione. L'altra grande soddisfazione è la collego ad esempio all'esperienza ai breviari, dell'applicazione per il breviario, di avere preti che mi telefonano, anche preti di 80 anni che mi chiamano per dirmi ma che cosa devo comprare per avere la preghiera sul mio telefono, no? E vedere il sacerdote anche anziano che però scopre come con lo spirito del bambino la tecnologia, come una cosa che gli dice: ma bella questa cosa, non sapevo che si potessero fare tutte queste cose qua. Solo ci vuole un po' di fantasia, la capacità di capire che ci possono essere delle realtà, delle possibilità nuove, cioè non tanto inseguendo ma sfruttando questi strumenti. E più che altro, secondo me, anche un po', oso dire, la capacità, facendosi aiutare da gente che ha scritto, che sa le cose, no? Perché ho studiato e ho cercato di studiare in modo serio, la possibilità di capire come funzionano gli strumenti, no? Perché noi abbiamo anche questa idea che gli strumenti siano neutri. No, lo strumento non è neutro, lo strumento ha dei linguaggi, si esprime in un certo modo, una cosa detta alla radio è diversa che è detta di persona o alla televisione. Conoscere per usare bene. Ecco, c'è un'iniziativa che avete presentato nelle sue settimane destinata soprattutto al terzo settore, volontariato, non profit. Come si configura? Sì, io ne sono molto orgoglioso di questa iniziativa, che tra l'altro nasce come frutto, mi permetto di fare questa parentesi, di un'esperienza che ho voluto fare, cioè di creare un team work, un gruppo di lavoro che si chiama MediaCat, di persone che credono, credenti ed esperti in comunicazione, perché bisogna anche mettere delle professionalità dentro queste cose. Da questo gruppo di lavoro nasce questa idea, che è il nuovo portale Sevicol, che mette insieme le offerte delle aziende che ovviamente producono servizi, prodotti, eccetera, per il mondo del terzo settore, sia religioso che laico, diciamo per la vita collettiva, cioè lo stare insieme, ospedali, alberghi, colonie, eccetera, eccetera, con le varie richieste, fornendo dei servizi, dando delle risposte, cercando di far incontrare e anche creare solidarietà, perché vogliamo proprio fare in modo che vengano finanziati anche dei progetti, che vengano poi seguiti, monitorati, addirittura proprio con webcam, in modo da vedere quello che si sta costruendo. Ecco, un progetto grosso, ne sono molto contento perché è nato un po' da una mia idea ed è nato all'interno di MediaCat, da questo gruppo di lavoro, e si appoggia a questa realtà forte che è la Sevico, che sono da 50 anni che lavora per rendere più semplice il lavoro degli enti religiosi e del terzo settore, e rendere più anche moderno il modo di porsi degli stessi. E anche per farsi conoscere, perché poi queste realtà del terzo settore sono molto vaste, hanno iniziative di ogni tipo che molto spesso lavorano un po' sotto traccia, fanno fatica ad emergere. Non si conoscono, non emergono, a volte emergono in modo disordinato, a volte uno non le conosce perché non sa dove trovarle, magari ha dei bisogni ma non ha il posto dove andare a vedere se per caso qualcuno gli sta offrendo qualche opportunità, e noi abbiamo cercato di creare questo spazio proprio per dare delle risposte. Anche per usare meglio le risorse, perché mettere in rete queste realtà può essere offrire anche un servizio di aiutarsi a vicenda. Certo, d'altra parte la vetrina di internet è veramente una vetrina. Adesso diventa talmente grossa che c'è bisogno di mettere un po' di ordine, e allora il portale, no, nasce proprio per creare un po' di ordine, perché la nostra testa ormai è piena di informazioni e abbiamo bisogno anche un po' di essere... Ecco, che ha avuto anche dei riscontri, diciamo, da qualcuno che ha scoperto, magari a sorpresa, senza saperlo, però navigando in internet si fanno tante scoperte, molte magari anche non troppo positive, altre invece edificanti, anche se il termine può essere magari antico, però ha avuto anche dei riscontri positivi di qualcuno, non dico che si è convertito, ma che magari ha scoperto o riscoperto certe formule, certi modi, certi valori. Devo dire di sì, perché adesso proprio arrivare alla conversione, anche perché poi la conversione nessuno sa quando c'è, quando non c'è, quindi lì lasciamola davvero agli occhi del Padre Eterno, che è l'unico che è in grado di vederla vera, perché io potrei essere meno convertito io da prete di un'altra persona che non lo è, che è un non credente, che magari è più convertito di me, è più avanti sulla strada della conversione. L'incontro fa tanto, cioè io ho sperimentato che incontrare la gente e dargli la possibilità di una porta un po' aperta attraverso la quale comunicare è fondamentale, e questo la Chiesa, che ha sempre fatto tanto, deve fare ancora di più, perché le porte bisogna lasciarle aperte, bisogna, nel rispetto reciproco, però lasciare aperti spazi per poter respirare e per potersi parlare. Attraverso i muri non ci si parla. Se ogni tanto nel muro c'è qualche finestra che si apre, internet penso che sia uno spazio da usare saggiamente, però che sia proprio lo spazio che più pieno di finestre che ci possa essere. Ecco, però la sua età attuale, la sua età un po' chiusa, un po' riservata, anche come vede i giovani di oggi? Ma io penso che li veda un po', li veda in modo standardizzato. Ecco, cioè ha dei settori, sembra quasi che faccia degli studi, che pensi solo a fare degli studi di business, no? C'è il giovane che fa così, il giovane che fa cos'ha, il giovane che fa in altro modo. E non sappia sempre andare in profondità. Il giovane ha bisogno invece dell'incontro personale, ha bisogno di qualcuno che gli dica, che gli proponga, cioè, delle cose di forti. Di appassionarsi. Adesso io vedo una società che non è che riesca ad appassionare i ragazzi, e secondo me è anche il problema del lavoro, il fatto che il lavoro non c'è, ma è anche un po' il circolo vizioso, è un po' anche un po' amplificato dal fatto che non riusciamo ad emozionare i ragazzi, perché un ragazzo emozionato è anche un ragazzo che si lancia, che si fa venire delle idee, che cerca anche qualcuno che gliele sponsorizzi, che gliele produca, che si tira sulle maniche. Un ragazzo depresso non potrà mai rendere. Ecco, e la speranza può nascere anche dal far capire che la Chiesa è qualcosa che può proiettarsi, può essere moderna. Può essere moderna non solo perché usa gli strumenti, ma anche perché usa un linguaggio, una capacità, e dà dei valori che vanno al di là, appunto, del tempo. Certo, e soprattutto è una Chiesa che sarà capace di fare la cosa più moderna che c'è adesso, che è quella di parlare con le persone, perché è un paradosso. Però basta vedere internet, siamo passati dallo scrivere i messaggini di teletext, non vedere niente, all'avere bisogno di avere la webcam, per non dire quasi toccare le persone. Ecco, stiamo ritornando a essere analogici, e la Chiesa, che è la cosa più analogica che ci sia, perché tocca l'uomo, forse può davvero dargli la cosa che è più moderna che esiste, che è quello dell'incontro personale. Questo vuole essere il suo augurio di buon Ferragosto a quanti ci ascoltano? Sicuramente è il mio augurio, cuore, veramente. Il fatto di tornare ad essere delle persone fino in fondo, e anche di rapportarsi, di scoprirsi continuamente attraverso qualsiasi strumento come persone. E in questa prospettiva, quale sarà la prossima iniziativa? È difficile. Diciamo che sarà una sorpresa. Sarà una sorpresa. Quindi seguite Don Paolo Pardini su internet, alla sua pagina su Facebook. Sì, Facebook, un po' di account, YouTube, eccetera. Insomma, si cerca di giocare anche un pochettino con questi strumenti. Magari in questi giorni di estate, quando piove, si può mettere cominciare a seguire Don Paolo Pardini. Volentieri. Che ringraziamo di essere ringrazio stato io voi con noi oggi in questa vigilia di Ferragosto, così come ringrazio Paolo Corleone in regia e Luca Rinaldi in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie, buona domenica, buon pomeriggio e ancora buon Ferragosto.